Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi abbiamo un ospite abbastanza eccezionale, un cardinale di Santa Romana Chiesa, il patriarca di Venezia, Angelo Scola, uno degli uomini di Chiesa più famosi anche per gli studi che ha condotto e che lo hanno portato per esempio a essere rettore della Pontificia Università Lateranense. Con Mondadori il cardinale Scola ha pubblicato Buone ragioni per la vita in comune, religione, politica e economia, 108 pagine, 17,50 €. L'autore parte dalla considerazione sulle grandi trasformazioni che sono in corso. La nostra è una società plurale, secolarizzata, anzi secolare, che fa giungere, scrive, alle estreme conseguenze un processo iniziato con la modernità. Una società dominata dalla tecnoscienza che, scrive, rischia di fare dell'individuo un soggetto tecnocratico collettivo di cui il singolo diventa pura protesi e le relazioni assumono un mero carattere funzionale e utilitaristico. In una società di questo genere, che ruolo può avere la religione? Che contributo può dare a costruire un ordine sociale nuovo e giusto? E che posto può riservare a Dio? Sentiamo dal cardinale Scola alcune risposte a questi quesiti che egli stesso si pone. Buongiorno ad Angelo Scola. Buongiorno a lei. Eminenza, lei inizia il suo libro facendo alcune considerazioni sulle caratteristiche della società attuale, una società plurale, post-secolare, dominata dalla tecnoscienza. Ecco, di queste prospettive, quali sono quelle che la preoccupano di più? Ma guardi, io non sono preoccupato in senso profondo, perché io sono figlio del cristianesimo, che è una religione essenzialmente realista, cioè la storia non la facciamo anche noi uomini, certo, ci mancherebbe altro, però ultimamente mette in campo la libertà di Dio e soprattutto la storia avanza per processi che non ci chiedono mica il permesso per accadere. Noi possiamo orientare questi processi, quindi i fenomeni che lei ha richiamato sono fenomeni evidentemente carichi di possibilità e nello stesso tempo di contraddizioni che possono condurre ad una evoluzione, ad una involuzione, e noi dobbiamo lavorare molto per orientarli in senso positivo, però in quanto processi noi vi siamo immersi e dobbiamo criticamente accompagnarli. Certamente nella mia idea, che ho espresso in questo libretto, bisogna trovare una possibilità diversa di cooperazione tra religioni, politica ed economia, e questa è proprio una strada per far sì che gli elementi di contraddizione che sono inseriti in questi processi non prevalgono sulle possibilità e sulle speranze che nello stesso tempo possono suscitare. Ecco, lei affronta a un certo punto un tema che ha risollevato e che gli è molto caro, che ha risollevato Benedetto XVI in occasione della sua visita in Gran Bretagna, cioè quello del rapporto tra fede e ragione. Sì. Lei scrive a un certo punto: l'indomabile ricerca della verità comporta un possibile rischio, quello di pretendere di ricavarla solo sulla base di ragionamenti. Ecco, in cosa consiste questo rischio? Ah, questo rischio consiste nel fatto che l'uomo contemporaneo possa ridurre la ragione soltanto a quel livello, a quella dimensione della ragione che oggi è effettivamente impressionante, che è diciamo quella che viene impiegata dalla scienza sperimentale, no? Per cui è come se le altre dimensioni della ragione, già Aristotele ne elencava almeno 5, c'è la ragione artistica, la ragione speculativa, la ragione morale, eccetera, eccetera. Il Papa parla dell'allargamento della ragione. Allora, il rischio invece è di ritenere valido, sostanziale per la persona e per la convivenza civile soltanto ciò che viene prodotto dalla ragione sperimentale, appunto dalla ragione tecnico-scientifica, e tutto il resto sarebbe da non prendere in considerazione o al limite da lasciare ai margini di una credenza individualistica. Io dico sempre ai ragazzi a cui do e alle ragazze a cui do la cresima: 2 più 2 fa 4, è una cosa evidente, importantissima, che voi potete accertare in maniera diretta e immediata in tutti i modi. Il bene che volete alla papà e alla mamma è un'altra cosa molto ragionevole, non si può misurare col 2 più 2 fa 4, però è una cosa più importante addirittura del 2 più 2 fa 4. Quindi il punto è quello di tenere la ragione larga, perché se si tiene la ragione larga, allora tutta la mia umanità si può esprimere. E lì si vede allora qual è la forza di edificazione che l'uomo religioso possiede anche in campo civile, fatte le debite distinzioni, quando assume un atteggiamento di proposta agli altri del suo modo di praticare la vita, una proposta che va dalla libertà alla libertà. E da questo punto di vista io reputo che le religioni abbiano molto da dire oggi alla politica e all'economia. E del resto è la stessa economia, la stessa politica che domandano questo allargamento della ragione. E è sorprendente che Benedetto XVI nella Caritas in Veritate abbia lanciato il tema della necessità di allargare la ragione economica. E lui dice che va allargata immettendo a livello tecnico e economico il principio della gratuità e della fraternità, che deve essere coniugato al principio dell'utile e del profitto. Cioè sono temi inediti, interessantissimi, tipici di questa epoca che chiamiamo postmoderna, che è certamente un'epoca di grandi cambiamenti, e come tale ci vede un po' come dei pugili suonati sul ring, però siamo pieni di speranza che l'uomo del terzo millennio possa costruire appunto delle relazioni buone da cui possano venire poi delle pratiche virtuose, e queste sono le buone ragioni per vivere insieme. Quando lei affronta questi temi economici sottolinea la necessità di superare la dicotomia Stato-mercato, soprattutto in tempi di crisi. Le dice: lo Stato va rafforzato perché però deve raggiungere, per raggiungere l'obiettivo di salvaguardare il peso della società civile. Per me questo è un dato molto importante. Io so che oggi sono molti critici di questo termine società civile in campo di filosofia della politica, lo leggiamo anche dagli opinionisti sui vari giornali. Io invece sono un grande difensore della società civile. Sarà per il compito che ho, cioè io sto facendo da 6 anni la visita pastorale nella chiesa di Venezia, tutti i fine settimana, venerdì, sabato e domenica sono in parrocchia, vedo la gente, incontro la gente, li ascolto e vedo una ricchezza. L'Italia è il paese che ha la società civile sicuramente più ricca di tutta l'Europa, un pullulare di fenomeni, di forme associative, eccetera. Allora bisogna che la politica e l'economia si decidano a valorizzare fino in fondo questa potente ricchezza, che del resto stiamo vedendo anche in questo tempo di crisi, è ciò che permette comunque a coloro che sono esposti purtroppo al dramma della disoccupazione. Il dato del 28% di giovani disoccupati in Italia fa veramente una tragica impressione, è la società civile, sono le famiglie che reggono questi ragazzi in questo tempo grave di prova, così come è la solidarietà della società civile e la sussidiarietà ben applicata che consente a chi ha 45 anni e perde lavoro comunque di tentare di guardare al futuro, ma questo vale in mille altri modi. Per questo comporta anche un ripensarsi dell'economia, della finanza e della politica, ma lo stesso welfare va ripensato in questa chiave, non può più essere pensato come un fenomeno puramente statuale, istituzionale. Quindi a livello sociale, a livello economico, a livello politico, tra l'individuo e lo Stato c'è di mezzo questa ricchezza dell'io in relazione, in cui le relazioni buone possono dar vita a delle pratiche virtuose che fanno società, e la politica è chiamata anzitutto a servire questa vita sociale e l'economia è chiamata a razionalizzare questa vita sociale, rispettando il principio della solidarietà, della sussidiarietà e venendo incontro a quei criteri di giustizia che devono riguardare anche il miliardo di persone che non ha il minimo per mangiare e che sono comunque assolutamente indisgiungibili da una economia che voglia essere autenticamente etica, non etica solo a parole. E i politici cattolici, secondo lei, sentono queste priorità? Penso di sì, penso che ce ne siano. Certo, qui noi siamo nel travaglio della mutazione che si è verificata con la fine del cattolicesimo politico, no? Quindi, ma i richiami del Santo Padre, Presidente della CEI ultimamente, e anche il ridestarsi della responsabilità degli uomini di Chiesa verso i fedeli laici che si devono loro impegnare in politica, mi sembra un segno bello. È chiaro che anche i cristiani, come tutti gli altri, devono inventare un modo nuovo di fare politica nel nostro paese, e qui siamo realmente provati da un affaticamento nella transizione che è cominciata nel 92, ma che non si è ancora conclusa. Quindi dobbiamo lavorare tutti, cattolici e non cattolici, insieme per assicurare questa necessaria vita buona agli uomini e alle donne dell'Italia, insomma. Grazie al cardinale Scola. Grazie a lei. Buona domenica. Tutto cuore, buona domenica. Prima di passare la linea alle informazioni sul traffico, vi segnalo che a Roma da giovedì 30 settembre inizia il Festival della Letteratura di Viaggio verso Oriente, il Levante, questo è il tema di quest'anno. La manifestazione si svolge al Palazzo delle Esposizioni, dove comincia giovedì e poi prosegue fino a domenica a Villa Celimontana. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso di un tema che le elezioni in Svezia hanno riportato in attualità, e cioè il rapporto degli europei con gli extracomunitari. Anche quel risultato elettorale è stato, infatti, come ricorderete, fortemente influenzato dalla presenza di una forte comunità di extracomunitari, in particolare di extracomunitari di religione musulmana. E su questo tema, che sta veramente modificando anche le coscienze, la mentalità degli europei, vi segnalo due titoli da parte di due donne che hanno un ruolo politico. Il primo è quello di una ex parlamentare olandese molto famosa, Jeanne Hirsi Ali. Il titolo è Nomade, perché l'Islam non è una religione per donne, pubblicato da Rizzoli, 344 pagine, 18,50 euro. Qui dovrei dire il nome del traduttore, ma curiosamente il libro non lo riporta, non so se per ragioni di sicurezza. In effetti l'autrice di questo libro è celebre per essere una parlamentare, un ex parlamentare dei Paesi Bassi, nata a Mogadiscio nel 1969, figlia di un dissidente politico e quindi abituata fin da bambina a girovagare tra Arabia, Etiopia e Kenya, fino a che a un certo punto fugge dalla famiglia e si ferma in Olanda. Dopo l'11 settembre prende una forte posizione contro l'integralismo islamico e diventa un personaggio pubblico nel suo paese di adozione. Viene eletta per il Partito Liberale al Parlamento e gira un documento con Theo van Gogh, il regista che sarebbe poi stato trucidato da un fanatico musulmano. Qui comincia un periodo molto difficile per la parlamentare, perché a un certo punto verrà addirittura privata della sua cittadinanza con la scusa rientrata che sarebbe entrata nel suo paese, nei Paesi Bassi, con un visto irregolare. In realtà è sottoposta a una fortissima campagna di minacce che addirittura spingono i suoi vicini di casa a farle causa, perché le misure di sicurezza che la riguardano danno fastidio ai suoi coinquilini, appunto. E allora Hirsi Ali abbandona l'Olanda e va negli Stati Uniti per continuare la sua battaglia. La sua battaglia, che è quella per imporre la linea non del multiculturalismo, che è la linea purtroppo fallita adottata negli anni precedenti dai Paesi Bassi, ma quella dell'integrazione, cioè quella di, spiega la stessa Hirsi Ali, di trasformare i nuovi venuti in cittadini. Nel suo libro Hirsi Ali non ha peli sulla lingua. A un certo punto scrive che la mentalità musulmana va cambiata e soprattutto è urgente modificare l'atteggiamento acritico verso il Corano, perché costituisce una minaccia diretta per la pace mondiale. Oggi la mente dei musulmani sembra essere condizionata dal jihad. Spiega per quale ragione l'approccio multiculturale, appunto, è sbagliato. Scrive: in Occidente gli assistenti sociali sostengono che gli immigrati hanno bisogno di conservare la coesione di gruppo per la loro salute mentale, altrimenti rischiano di smarrirsi e la loro autostima può risultarne distrutta. Ciò è falso, conclude. È possibile, a suo parere, cambiare, è possibile, scrive, rendere più aperta la mentalità musulmana. Molti musulmani, infatti, riconoscono, scrive ancora l'autrice, le debolezze dell'Islam. Una quota significativa delle email che mi vengono inviate è scritta da musulmani d'accordo con quanto sostengo, e richiama l'Occidente alle proprie radici illuministe con queste righe che vi propongo adesso. Thank you. Il multiculturalismo e il relativismo che imperversano nella cultura occidentale mi fanno venire in mente l'imponente, bella e lucida credenza antica di mia zia Cadia a Mogadiscio. Un giorno, quando la spostò per pulirvi dietro, crollò rumorosamente. Un infinito esercito di termiti si era nascosto sulla parte retrostante dell'enorme mobile e centimetro per centimetro l'aveva lentamente rosicchiato. Nessuno l'aveva sospettato e alla fine ne era restato solo il telaio scheletrico. Vorrei semplicemente che atei, filo illuministi e liberi pensatori si organizzassero in modo spontaneo per contrastare l'analoga minaccia disgregatrice dell'Islam fondamentalista. Ma la probabilità che un'organizzazione del genere attiri un appoggio significativo sembra remota, perché i figli dell'illuminismo sono disperatamente frammentati riguardo all'approccio all'Islam. Molti pensatori occidentali contemporanei, assieme alle idee di uguaglianza e libertà di parola, hanno inconsciamente assorbito la tossina della condizione. Offrono cattedre agli apologeti dell'Islam nelle migliori e più famose istituzioni accademiche. Non esiste unità né visione comune su come affrontare questa minaccia. Anzi, chi la individua con chiarezza viene liquidato come allarmista. Un'altra parlamentare, questa in esercizio in Italia, per il centrodestra, è Suad Sbai. Il suo titolo è L'inganno, vittime del multiculturalismo, è pubblicato da Cantagalli, 246 pagine, 15 euro. La Sbai è una docente all'Università di Napoli, è di origine marocchina e molto attiva nella campagna contro la segregazione delle donne musulmane. In questo libro vuole illustrare appunto i danni che la approccio multiculturalismo può determinare nei confronti della condizione femminile, della condizione delle donne musulmane. Smonta a sua Sbai in questo libro il mito del multiculturalismo, spiegando che cos'è e spiegando quale sia il rischio. Scrive infatti che esso dà vita a situazioni concrete di conflitto tra la legislazione dello stato di residenza e le tradizioni del paese di appartenenza del migrante. Così, aggiunge, si creano gravi discriminazioni, soprattutto per quanto riguarda i soggetti più deboli, cioè le donne e i bambini. E questo è successo anche in altri paesi, per esempio ricorda il caso della Gran Bretagna, dove addirittura il primate della Chiesa anglicana Williams si è dichiarato a favore dell'adozione della Sharia e il governo laburista di Gordon Brown aveva deciso di avallare la poligamia. Oppure ricorda l'autrice due studiosi della Danimarca che originariamente erano favorevoli al multiculturalismo, ma che vedendone i risultati hanno cambiato idea e che accusano adesso l'Occidente, scrive, di aver esaltato la posizione di ghetto culturale con il pretesto del multiculturalismo, contribuendo così alla crescita dell'Islam radicale. Ricorda anche sentenze che hanno sostanzialmente ammesso che tradizioni culturali o religiose particolari possono rendere meno gravi certi delitti, come per esempio le botte che tanti padri musulmani danno alle figlie che vorrebbero adottare stili di vita occidentali. E qui in questo libro si esaminano insomma molti casi, non soltanto italiani ma sparsi in tutta Europa, dove le donne, scrive l'autrice, sono a rischio di emarginazione ed esclusione dalla sfera pubblica per una doppia discriminazione interna nella comunità d'origine ed esterna nella società del paese ospitante, spesso a causa del multiculturalismo oppure per la mancanza di strumenti di tutela. E non evita neanche Suad Sbai il riferimento a gruppi estremisti che prosperano nell'ombra del multiculturalismo. Veniamo adesso a un appuntamento di attualità, questo più lieve, con la donna però sempre al centro. Sono le sfilate di Milano Moda Donna in corso a Milano. In questa occasione torniamo all'origine della grande moda con un libro di Karen Carbo, Il mondo di Coco Chanel, lezioni di vita e di stile dalla donna più elegante di sempre, illustrato da Cesare McLaren, tradotto da Gabriella Tonoli, pubblicato dall'Indau, 232 pagine, 19 euro. La definizione di donna più elegante del mondo a Coco Chanel data niente di meno che Giorgio Armani. In effetti, scrive l'autrice, per quasi 100 anni Coco Chanel è stato sinonimo di qualsiasi capo di abbigliamento che consideriamo di classe. Aprite l'armadio e vi troverete lo spirito di Chanel. Se vi trovate una serie di giacche da abbinare a un paio di jeans, per apparire come se aveste proprio pensato a vestirvi così, invece di parcheggiare il tosaerba, darvi una pulita alle unghie e uscire di casa, quella è Chanel. Questa non è una semplice biografia della grande stilista, ma una serie di anche di indicazioni e di consigli che possiamo ricavare dalla sua vita, dal suo approccio verso la vita, l'eleganza, per cercare di avvicinarsi appunto alla classe della grande stilista. Il confettino. Anche questo è un titolo su un tema di grande attualità, quello dei Rom. Vi propongo perciò il libro Il sogno di Gileppa, è pubblicato da EDT Giralangolo ed è scritto da Sofia Gallo con Jas Mikhailovic e le illustrazioni di Livia Coloi, 34 pagine, 10 euro. Il sogno della protagonista è quello di giocare al calcio. Naturalmente ci riuscirà, conferma che l'integrazione che funziona meglio nelle nostre società è quella che passa attraverso il gioco e lo sport, nei quali i bambini si riconoscono solo come bambini e non perché appartenenti a questa o a quella etnia. E con questo ringrazio Margherita Aine in redazione, Filippo Oreggi in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it e il sito www.radio24.it, sul quale potete riascoltare questa e tutte le altre trasmissioni. Vi do appuntamento domenica prossima e vi auguro buona settimana.